743. Conserva di aranci. Aranci numero 12, un limone di giardino, zucchero bianco fine quanto il peso degli aranci, acqua metà del peso degli aranci. Rum genuino 4 cucchiaiate. Con le punte di una forchetta bucate tutta la scorza degli aranci, poi teneteli in molle per 3 giorni, cambiando l'acqua sera e mattina. Il quarto giorno tagliateli a metà ed ogni metà a filetti grossi 0,5 centimetro circa, gettandone via i semi. Pesateli e solo allora regolatevi per lo zucchero e per l'acqua nelle proporzioni indicate. Metteteli al fuoco dapprima con la sola acqua e dopo 10 minuti di bollitura aggiungete il limone tagliato come gli aranci. Subito dopo versate lo zucchero e rimestate continuamente finché il liquido non avrà ripreso il forte bollore, perché altrimenti lo zucchero precipita al fondo e potrebbe attaccarsi alla cacciaruola. Per cogliere il punto della cottura, versatene a quando qualche goccia su di un piatto, soffiateci sopra e se stenta a scorrere, levatela subito. Aspettate che sia tiepida per aggiungere il rum e versatela nei vasi per custodirla come tutte le altre conserve di frutta, avvertendovi che questa ha il merito di possedere una virtù stomatica. Del limone si può fare anche a meno.